Buonasera, buonasera, bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. In realtà oggi non c'è la puntata di Entropia Massima, siamo qui per salutarvi perché l'ultima puntata c'è stata lunedì scorso, però ci siamo dimenticati di salutarvi e quindi oggi lo volevamo fare lasciandovi un po' con le nostre voci. Quindi siamo un po' tutti e tutte qui. È finito questa lunga stagione con i nostri quattro cicli e allora oggi vi salutiamo. Cominciamo con il nostro, c'è anche Stefano con noi. Ciao Stefano. Ciao a tutti e a tutti. Eccoci, quindi estrattivismo dei dati, ciclo tecnologico che insomma vi ha tenuto compagnia una volta ogni quattro come gli altri tre cicli. E quest'anno insomma, ci siamo concentrati parecchio sull'intelligenza artificiale, grazie insomma alla presenza di Stefano che ha arricchito la nostra trasmissione con insomma, la sua competenza specifica sul tema. Abbiamo trattato tante cose, ci siamo occupati di guerra, ovviamente di controllo, come facciamo da sempre in questo ciclo. E poi Stefano, tu che cosa vuoi aggiungere? Ma io non aggiungerei, Davide, troppo, abbiamo parlato tantissimo e tendiamo a parlare tanto, per cui è vero. Direi che ci riguarda, possiamo fare intanto un saluto, augurare buone vacanze alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, che è un'estate di relax, di riflessione, ma anche di disintossicazione dalla tecnologia. Noi abbiamo parlato un po' di questo, provate ad essere un pochino meno connessi sempre, provate a fare questo esercizio. E dunque nulla, mi fermo qui e direi di lasciare la parola anche agli altri. Buone vacanze a tutti, buona estate. Buonasera a tutte e tutti. E grazie di averci tenuto compagnia, questa è Antropologica, noi ci rivediamo dopo l'estate, ci rivediamo a ottobre e ci siamo tenuti compagnia veramente ad ottobre scorso fino a giugno, quindi è stata una lunghissima stagione su questa disciplina che si occupa dell'uomo. Abbiamo iniziato a trattarla, abbiamo iniziato le prime riflessioni attraverso la violenza di genere, attraverso la violenza ostetrica, attraverso l'educazione sessuale, il diritto all'abitare, attraverso i percorsi migratori, e continueremo a ottobre a parlare con ospiti, colleghe e colleghi che vengono anche da altre latitudini e da altri mondi, per continuare a riflettere su ciò che ci riguarda veramente molto da vicino, cioè la nostra specie. Dunque, buona estate e ci vediamo a ottobre. Buonasera a tutti e a tutti, qui in onda Jacopo di Libera Scienza e Libero Stato, anche io qui per augurarvi tante buone vacanze, ma noi siamo stati l'ultima puntata e quindi io e Lorenzo ve l'abbiamo già augurate se non erro, quindi mi ripeto, ritorneremo con tanti buoni propositi, tante buone idee, continueremo a indagare i problemi della scienza, scienza e società, scienza e potere, come abbiamo fatto quest'anno, spaziando un po' su tutti i campi, addirittura abbiamo parlato di Ulivo, di Xiella, abbiamo parlato di storia della fisica, Quaestere Majorana, abbiamo parlato di temi strettamente più connessi con l'ecologia, con il cambiamento climatico, quindi come sempre, sempre le solite tematiche, ma sono tematiche che sono velocemente in divenire, quindi richiedono sempre un approfondimento, un aggiornamento, non basta mai, perché la scienza è complicata, va avanti anche per errori, quindi bisogna sempre rivedere quel critico, soprattutto quello che riguarda adesso in questo momento i temi più scottanti come appunto l'ecologia e i problemi energetici. Quindi continueremo su questo filone l'anno prossimo con Lorenzo, il Libera Scienza Stato. Per il momento io mi congedo, augurando a tutti un'altra volta buone vacanze, che siano vacanze anche di lettura e di riflessione. E allora, fratelli e sorelle, compagni e compagni all'ascolto, anche questo per un ulteriore ultimo saluto da parte sia di Libera Scienza e Libero Stato, dove appunto andremo avanti, ha detto tutto già il comandante Jacopo sul futuro, ma saremo sempre più attenti alle varie tematiche, dai lanci spaziali alle nuove tecnologie, anche noi cercando di capire, di avere un approccio un po' critico, lo stesso approccio critico che cerchiamo di avere. Quest'anno ne abbiamo parlato e ci siamo particolarmente concentrati sulla pericolosità vulcanica, anche con l'altro lato di entropia massima, che è emergenza zero. E quindi io vi saluto, vi mando tanti baci da Libera Scienza e Libero Stato, passando la parola a Emergenza Zero, vero Chiara? E allora eccoci, Emergenza Zero, anche da questa ultima parte del quartetto ti salutiamo tutte e tutti e auguriamo una buona estate sia per chi sarà in vacanza e per chi anche non se lo potrà permettere, sarà al lavoro, ma che ci ascolta e ci segue. E quindi sì, abbiamo parlato di emergenza, abbiamo parlato come gli altri anni di impatto anche delle azioni dell'uomo sull'ambiente, dell'interazione fra il vulcanismo e gli esseri umani. Ne continueremo a farlo l'anno prossimo, speriamo di continuare, di proseguire questa nostra serie di trasmissioni di tutta la massima. E quindi sì, in chiusura un saluto di nuovo a tutti e a tutti e un saluto particolare che è assicurato della propria libertà personale. Ciao a tutti allora, ciao ciao! Ciao, ciao, buon estate! Ciao, buon estate! Ciao, ciao. Ciao. Ciao.